malgrado tutto un nitido sole che prende posizione nel celeste del cielo di oggi 15 febbraio, magico mercoledì letterario che inizia con un incipit, come ben sapete, la presentazione dalle prime 20 righe tratte da una selezione curata da Silvia Pioggia in arte La Sissa, che apre anche come incipit il nostro Voltiamo Pagina, che sarà dopo la pubblicità. Ricordo, ma ne parleremo questa sera, Granarolo dell'Emilia, via San Donato, libreria Biblion, la presentazione della biografia su John Lennon curata e scritta da Silvia Albertazzi. Intanto incipit tra pochissimo nuovamente in diretta. Ciao, sono la Sissa e questo è l'Incipit, tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Approfondendo la questione dell'incipit, ho scoperto che ci sono vari tipi di incipit. C'è quello descrittivo, quello narrativo, oppure quello in media res. Ci sono vere e proprie teorie sul valore e l'importanza di questa prima parte del romanzo e della sua influenza sul lettore nella scelta appunto di una lettura. È quindi un tema che appassiona sia addetti ai lavori che non. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume e dal fascino dell'autore. E voi invece, in base a che cosa decidete se leggere un libro? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni volumi nei quali mi sono imbattuta in libreria e scopriremo insieme se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per le nostre selezioni di lettura. Questi sono i primi paragrafi di Metamorfosi, siamo un'unica sola vita, di Emanuele Coccia. Come tutte e tutti, ho dimenticato il sapore e l'odore di quel momento, le persone intorno a me, gli oggetti che popolavano la stanza. Ho dimenticato il giorno e l'ora, i miei pensieri e le mie emozioni, l'intensità della luce in quei primissimi istanti. Forse questo oblio era inevitabile? Tutto mi appariva per la prima volta, troppo diverso, troppo nuovo, troppo intenso perché potessi immagazzinarlo. Ho dovuto dimenticare e dimenticare tutto. Fare il vuoto per lasciare spazio al resto, alle cose future e a ciò che ben presto sarà il mio passato, al mondo intero. Fare il vuoto per rendere possibile l'esperienza. Ho dovuto dimenticare, dimenticare tutto, per poter percepire me stesso. La nascita è il limite assoluto del riconoscimento, è la soglia sulla quale dire io significa confondersi con un altro. Impossibile sapere se il respiro che ci permette di pronunciare questa sillaba ci appartenga davvero o se sia l'estensione del corpo di nostra madre. Impossibile sapere se questa sillaba nomina il nostro corpo o quello da cui siamo usciti. La nascita è la forza che permette di dire io, solo a patto di negare ogni memoria. Bisogna dimenticare da dove si viene, bisogna dimenticare l'altro corpo che ci ha ospitato per così tanto tempo, bisogna smettere di identificarsi con esso. Qui è stato facile convincermi, anche se nelle prime righe si parla soprattutto di nascita e di corpo materno. Io l'ho vissuta su me stessa, sono stato in grado di andare avanti solo quando mi sono detta ho spazio per qualcosa di nuovo. E quindi facciamo spazio per qualcosa di nuovo, prepariamoci per le nostre primavere e per le nuove metamorfosi, sperando di non diventare uno scarafaggio. Come on my readers! marito non fa il monaco, non si giudica un libro dalla copertina e via discorrendo, ma a volte è sempre così. Io a volte ho acquistato dei dischi solo per la copertina, mi è capitato anche con dei libri, meno, ma anche con dei libri, non lo nascondo. Beh, leggere le prime 20 righe non è che puoi chiaramente avere, puoi leggere qualche recensione, puoi essere consigliato, puoi avere i tuoi lettori che non perderesti nemmeno per un attimo o per una pubblicazione, puoi avere gli scrittori, le scrittrici che nel cuore ti stanno, ma indubbiamente questa estemporaneità di trovare, oltre agli acquisti consueti, nelle prime 20 righe una metodologia di selezione, indubbiamente è meglio, è più affascinante e più particolare che trovarle magari attraverso una lettura online o attraverso anche questi formati di riassunto, non so, come spesso capita nelle librerie, ora si trovano questi riassunti dei classici. No, ecco, questo diciamo che non è una metodologia che mi appartiene. Il fatto di trovare, mi è capitato e non lo nascondo, di partire dalle prime 20 righe e dire ma questo potrebbe essere, ecco, ad esempio il lavoro di Emanuele Coccia non lo conoscevo, sapevo dell'autore ma non avevo letto, non ho letto Le Metamorfosi, che conosco solo attraverso il grande Kafka. Comunque, grazie del consiglio e dell'ottimo lavoro, ogni mercoledì o quasi, diciamo, abbiamo l'incipit prima del Voltiamo Pagina curato da Silvia Pioggia, ancora un po' di musica con Gerardo Fresina, poi andiamo in pubblicità e ufficialmente l'inizio del Voltiamo Pagina Libri a Colazione. Quindi colgo l'occasione per ridare il numero 333-180-9494, i quiz immancabili all'interno della nostra rubrica letteraria. A tra poco.